ければ。 Se una radio è libera, libera veramente. Ascolta la radio. Radio Sessioni contagiano e con libere informazioni. Anni suonati, storia semiseria delle radio libere. Benvenuti a 40 anni suonati, storia semiseria delle radio libere, il programma che vi ricostruisce in ordine sparso i 40 anni delle radio libere indipendenti. In questa puntata ci concentreremo sul ruolo delle radio libere nella lotta alla mafia. Ovviamente faremo il focus sulla figura di Peppino Impastato, di cui ascolteremo una registrazione in cui rideva i mafiosi di Cinisi, ma allargheremo anche il discorso ai giornalisti contro la mafia insieme a Salvo Vitale, storico compagno di Impastato. Il concerto è quello dei Modena City Ramblers, che suonano i 100 passi, colonna sonora del film sulla figura di Impastato, ma ascolteremo musica antimafia anche di altri gruppi. Buon ascolto! AD 18 agosto 1936. In contrada Sorci è stato ritrovato un morto sparato. Sono un donno vestito da sposa. Vestito. 19 agosto 36. All'altezza delle terrazze del Buon Convento è stato trovato un morto sparato. 20 agosto 36. Alla presenza di tre guardie e mia si costituisce calogero sonnino, dichiarandosi l'uccisore dell'uomo trovato alle terrazze del Buon Convento e padre del ragazzo trovato ucciso in contrada Sorci. 22 agosto 36. Tramite la mia persona, il sonnino fa sapere alla famiglia di volere il figlio sepolto nel suo potere. 25 agosto 1936. Alla presenza del medico legale, del curato, del sepoltore, dei sette congiunti e mia, si procede alla tumulazione. Sono donna vestita. Durante lo scavo, all'improvviso, dalla terra, l'acqua. Calogero Sonnino aveva ragione. Aveva perduto un figlio, ma aveva trovato l'acqua. Sì, ma se tuo padre aveva ragione, tu... In collegamento da Palermo, Salvo Vitale, compagno e collega di Peppino Impastato, che saluto e a cui subito chiedo di ricordarci chi era Peppino. Su Peppino le caratteristiche fondamentali sono quello della rottura con la famiglia e con l'ambiente, quindi questa sua forma di ribellione critica contro le distorsioni del nostro tempo, della nostra civiltà. Questa sua eredità del 68 è un'eredità proprio molto ribelle. E l'altra cosa, questo suo bisogno di comunicare la propria voglia di costruire un mondo nuovo, non di tenere da dentro, e quindi di aggregare attorno a sé, attorno alle proprie idee persone. Peppino è una persona dotata di molta socializzazione. E ci sono delle persone che magari proprio guardando sente una sorta di fluido per cui ti attraggono o ti respingono. Peppino è una di quelle che riusciva a proprio a prima vista a creare un fluido, un rapporto positivo. Quindi un comunicatore, un ribelle, senza dubbio, come dire, è un comunista soprattutto, non bisogna dimenticare questa caratteristica fondamentale della persona di Peppino, nel senso che per il comunismo di Peppino era un po' legata alla nostra scelta extraparlamentare, cioè di non militare in nessuno dei partiti politici di allora e di essere fortemente critici con tutte le forme, diciamo così, di assuefazione della borghesia e di cancellazione della democrazia. Quindi, diciamo così, la nostra scelta era extraparlamentare di sinistra, come ci chiamavano allora, dopo una serie di peripezie varie andò a finire in un movimento, quello di lotta continua, che appunto non era un partito. A proposito di partito, mi fa pensare, con Peppino abbiamo militato, la nostra prima esperienza politica andò a finire in un partito che si chiamava Partito Comunista d'Italia, dove per avere la tessera bisognava fare 2 anni di apprendistato. Ci rimanemmo 6 mesi e ci cacciarono via per indisciplina di partito, perché alle 6 bisognava essere pronti ad andare a distribuire volantini ai cantieri navali e cose di questo tipo. Comunque, diciamo che la scelta di lotta continua in un certo senso ci dotava di un quotidiano che era molto ma molto efficace e che Peppino vendeva per le strade vicine, sì, e nello stesso tempo ci dava dei riferimenti con esponenti della sinistra extraparlamentare nazionale. Quindi, riassumendo il tutto, la ribellione all'interno della famiglia, non bisogna dimenticare che il padre di Peppino, Luigi Impastato, era cognato di Cesare Manzella, in assoluto il capo mafia vicino. Sì. La rottura per Peppino significò rottura con il proprio padre, significò andare a vivere spesse volte fuori dalla famiglia da solo e quindi imparare a costruirsi con le sue forze sia una cultura, sia una prospettiva politica e sia anche il modo di esistere e sopravvivere. E nel 76 Peppino fondò quella che è stata chiamata Radio Out, una radio libera senza pubblicità che faceva controinformazione. Cosa si intendeva con controinformazione? Tenuto presente che dal momento in cui Danilo Dolci crea la sua prima radio libera a Partenico nel 1970, al 1976-77, anno in cui nasce Radio Out, sono 7 anni che comunque significano la diffusione in Italia delle radio libere. Intorno 75 ne nacquero circa 5.000 in tutta Italia. Radio Auto apparteneva a questo circuito, però era una radio un po' atipica, nel senso che era una radio assolutamente politicizzata, era una radio che faceva molta ma molta informazione e faceva musica di un certo tipo. E soprattutto, cosa vuol dire fare controinformazione? Controinformazione significa che rispetto alla gestione sia dei giornali che della RAI di allora, che privatizzava interamente il modo di fare notizia, fare controinformazione significa cercare di, all'interno delle situazioni sia comunali che regionali che nazionali, cercare di vedere qual era la vera realtà dei fatti ho la chiave di lettura dei fatti, è un po' diversa da quella che davano i giornali. Quindi diciamo, questo è un aspetto. L'altro aspetto invece era quello di fare informazione dal basso, cioè di andare a cercarsi la notizia tra la gente, di far sentire e parlare la gente dei loro problemi. E la radio era un po' uno strumento a servizio della popolazione, della cittadinanza. Uno strumento non solo così di formazione, ma anche di informazione. Per Peppino la radio doveva essere proprio lo strumento per creare coscienze politiche. La controinformazione doveva servire a questo, diciamo, quindi è uno strumento proprio, direi, educativo e pedagogico, oltre che informativo. E tra l'altro una delle peculiarità di Radio Out era proprio quella di mettere il ridicolo, di denunciare i mafiosi, anche di prenderli in giro facendo della satira. Sì, la satira era proprio lo strumento più efficace. Trovano una trasmissione che si chiama Onda Pazza, che veniva trasmessa venerdì sera, molto, quasi tutta fatta sull'improvvisazione, però sulla base di un canovaccio di notizie. Per quanto riguarda Terrasini, era la radio, me ne occupavo io, per quanto riguarda Cinisi Peppino, da notizie che venivano elaborate in una sorta di dimensione mistica, surreale, dove accompagnando con le musiche adatte si metteva in ridicolo il boss intoccabile, si mettevano in ridicolo i politici collegati e associati col boss, e magari inventando, che ne so io, un villaggio indiano, come abbiamo fatto facendo un western a Mafiopoli, oppure ripristinando, rifacendo alla radio la festa della ricotta, che era una delle cose tipiche di Sinisi, dove Badalamenti faceva un po' la parte del boss che regola la vita di quel paese. Essere messi in ridicolo per i mafiosi significò essere, come si dice, non avere rispetto nei loro confronti. E siccome il rispetto è la caratteristica fondamentale degli ambienti siciliani, ecco che l'omicidio di Peppino ha subito questa chiave di lettura, assieme ad altre ovviamente. Stavamo parlando appunto di Radio Out. Tra l'altro la vostra attività in radio non era ben vista dalla popolazione. No, la nostra attività, così come la nostra presenza, era un po', come si dice, un pugno nell'occhio nei confronti di un sistema sedimentato che era andato avanti sempre con le stesse regole, per cui noi eravamo dei disturbatori della quiete pubblica, se così si può dire. Anche la radio quindi aveva un po' questo cercare di essere circondata da un cordone sanitario, da un cumulo di menzogne che venivano buttate nei nostri confronti, la cosiddetta macchina del fango, per cui noi eravamo terroristi, eravamo drogati, facevamo le orge sessuali, eccetera. Fango che significava anche il divieto totale ai ragazzi di avvicinare alla nostra radio. Questo ci ha impedito, come si dice, di poter andare avanti. Le nostre risorse umane si sono ben presto esaurite e non abbiamo avuto più ricambi. Diciamo che ci hanno un po' fatti spegnere, circondandoci appunto di questo cordone sanitario. Anche se l'esempio di Peppino è ancora molto vivo. Il Peppino è considerato un po' sempre una sorta di estraneo nel paese di Cinisi, nel senso che anche se i tempi sono un po' cambiati in alcune cose, stenta ancora a essere accettato per quello che è stato realmente. A Cinisi Peppino era, come si dice, uno che non omogeneo al sistema, così scrive la commissione antimafia, e questa mancanza di omogeneità per me, alcuni aspetti io ritengo che ancora rimanga nel suo paese. Il concerto Modena City Ramblers, concerto a Bologna il 4 luglio 2013. We'll be right back. degli aranci, tra Cinis e Palermo, parlava alla sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo porta a lottare. Aveva un cognome incombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce, ma non come si muore, e non sei un ideale, ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi Poteva come tanti scegliere e partire, invece mi decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi Adesso vi chiediamo di battere le mani, chiediamo a tutti quanti voi di battere le mani. Vi chiediamo di battere le mani per chi ogni giorno combatte le mafie nel nostro paese. Vi chiediamo di battere le mani per le forze dell'ordine, per i magistrati, per i giudici. Vi chiediamo di battere le mani anche e soprattutto per le ragazze e i ragazzi delle cooperative di Libera, che ogni giorno vivono sulla propria pelle questi 100 passi. Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai cantare, e dimmi se sai anche camminare, cantare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi Dall'archivio Peppino Impastato, discorso su Radio Out. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, lo Z11, il grande capo Tano seduto si aggira come uno sparviero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita, si aspetta il verdetto si aspetta il verdetto. Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua. C'è Mano Cusuta, Cusuta Mano, poi c'è Guarara Galante, eccolo là con il suo bel pennacchio. Poi c'è anche l'esploratore, il Pari, deve essere un Pari d'Inghilterra. E infine a presiedere questa seduta, veramente in tutta la sua maestosità, ci sono tutti. C'è il grande capo, i due grandi capi, Tano Seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. I membri della commissione discutono qualche piccola divergenza, ma sono fondamentalmente d'accordo. Sì, si stanno mettendo d'accordo nell'approvare il progetto Z11. Ancora qualche minuto, è il momento culminante. Pochi minuti e verrà effettuato. Che cosa verrà effettuato? Fratelli, il momento è grave e solenne. La nostra riserva indiana ci è stata finalmente aggiudicata. Tune into the King of Songs and Blues. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculiga, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculiga. E secoli dei secoli girando per il mondo nella pizzeria con il Vesuvio come sfondo, non viene dalla Cina, non è pure americano, se vedi uno spaccone solamente un italiano. L'italiano fuori si distingue dalla massa, sporco di farina o di sangue di carcassa, passa incontrollato, lui conosce tutti, fa la bella pace e fa la mette in culo a tutti. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. A son di mandolino nascondeva illegalmente whisky e sigarette, chiaramente per la mente. Oggi un po' cambiato, ma è sempre lo stesso, non spaccia sigarette ma giochetti per il sesso. L'italiano è stato sempre un povero emigrato che guardava avanti con la mente nel passato. Chi non lo capiva lui non rispiegava, chi gli andava contro è soltanto pure no. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. L'Italia, l'Italia nella sua gente, lo stile che fa la differenza chiaramente. Genialità, questa la regola, con le idee che hanno cambiato tutto il corso della storia. L'Italia e la sua nomina è un'altra carica, un'eredità scomoda. Oggi la visione italica è che siamo tatuati con la firma della mafia. Mafia, mafia, mafia, non mi appartiene, non e non questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria, la gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria. Mafia, mafia, mafia, non mi appartiene, non e non questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria, la gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Vacanze di piacere per giovani settantenni, all'anagrafe italiani, membri asile diciottenni, pagano pesanti ragazze intraprendenti, se questa compagnia viene presa con i denti. L'italiano è stato sempre un povero emigrato che guardava avanti con la mente nel passato. Chi non lo capiva lui non rispiegava, chi gli andava contro è sempre pure no. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Spara la famiglia del pentito che ha contato, lui che viene stipendiato il 27 dallo Stato, nominato e condannato nel suo nome, hanno sparato e ricontare le sue anime, non si può più. Risponde la famiglia del pentito che ha cantato difendendosi a compare, tutti i giorni più incazzato, sarà guerra tra famiglie, sangue e rabbia tra le griglie, con la fama come foglie che ti tradirà. Mafia, mafia, mafia, non mi appartiene, non e non questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria, la gente è troppo stanca e appartiene, non è non questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria. La gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria. Mamma l'italiani, mamma l'italiani.